Effetto Mondo. Les crèches, les écoles, les collèges se prépareront à accueillir à partir du 22 juin tous les élèves de manière obligatoire et selon les règles de présence normale. Le parole del presidente che ci fanno morire di invidia. Giulia Crivelli, ciao, buongiorno. Buongiorno, sì, mentre ti ascoltavo prima dicevo questa era proprio per Alessio. Come sapete ieri Macron ha parlato per la quarta volta dall'inizio della pandemia alla Nazione, oggi è su tutte le prime pagine dei giornali, dalle Figaro all'Humanité, le Parisienne, les Echos, perché ha detto chiaro e tondo passiamo adesso veramente, voltiamo pagina, tranne due piccole zone dove i dati sono ancora poco confortanti, ma tutta la regione di Parigi, l'Île-de-France verrà a sua volta deconfinata. E soprattutto in questo passaggio, appunto, abbiamo sentito, riaprono tutte le scuole di ogni grado. Sapete che dall'11 di maggio già qualcosa era stato riaperto, soprattutto per i più piccoli. Adesso riapre tutto, compreso le università. In teoria l'anno scolastico francese dovrebbe finire il 4 di luglio. Probabilmente verrà prolungato magari di una settimana perché questa riapertura abbia un senso. E qui la nostra invidia sale proprio alle stelle, vabbè, insomma. Noi che siamo alle prese con l'intreccio con la data delle elezioni regionali, vabbè. Ecco, perché tra l'altro la cosa appunto interessante è che prima comunque si era deciso sulla scuola, ripetiamo, sì. Dall'11 di maggio c'era già stato questo sforzo per almeno alleviare l'impegno per i bambini più piccoli, poi si era cominciato a discutere del secondo turno delle regionali che si dovevano tenere anche in Francia, e comunque questo secondo turno si terrà il 28 giugno, quindi prima la scuola, poi le elezioni. Tanto però diciamo che alcuni giornali sono un po' critici perché Macron ha un po' elogiato se stesso. Liberation titola Macron, Félicité Macron, Macron si congratula con Macron perché anche lui, insomma, mea culpa ne ha fatti pochi. Le Figaro però, che comunque è un giornale diciamo di più vicino a Macron di quanto sicuramente possa essere Liberation, titola la Francia passa proprio al verde, il via libera per la Francia, e no, tra l'altro Macron ha anche auspicato, come del resto sta succedendo anche in Italia, che adesso tutta questa occasione diventi poi una ripartenza su tanti temi. Anche Macron naturalmente ha parlato di tutta il deal ecologico. Sappiamo che hanno già messo a punto un piano per l'intera industria automobilistica e non tanto per singole aziende, e poi ha auspicato anche, e verrà anche creato un comitato speciale all'interno del Parlamento, anche una svolta per quanto riguarda il welfare, perché sappiamo che comunque l'emergenza è economica e quindi anche sociale, anche in Francia, per via della pandemia e del crollo del PIL. Quindi, però insomma è sembrato, sì, probabilmente ha cercato di rassicurare i francesi facendo a se stessi complimenti più o meno implicitamente per come lui e il suo governo naturalmente hanno gestito la crisi. Giulia, giornali americani, immagino con quello che è accaduto ad Atlanta, le conseguenze, i nuovi disordini. Sì, per forza dobbiamo anche oggi parlare di Stati Uniti. Prima di tutto una cosa che ci lega a quello che avevamo detto venerdì, il grande primo rally di Trump che era stato fissato per il 19 giugno a Tulsa, Oklahoma, è stato spostato da Trump perché quel giorno è il giorno in cui si commemora negli Stati Uniti la fine della schiavitù, e anche resta però il problema, lo sottolinea oggi sia Washington Post che New York Times, che Tulsa, Oklahoma è comunque una scelta non proprio felice, perché nel 1921 ci fu un massacro di neri perché in Oklahoma comunque, nonostante la fine dello schiavismo, c'erano ancora delle condizioni, c'era quasi un ghetto a Tulsa per i neri, e quindi insomma vedremo se, perché poi tra l'altro questa decisione è stata presa qualche ora prima che poi succedesse quello che è successo ad Atlanta. Oggi Chicago Tribune titola Atlanta in fiamme, New York Times pubblica una foto delle proteste che ci sono ancora adesso di fronte a quello che resta di quel ristorante della catena Wendy's completamente bruciato, e naturalmente c'è molta paura che ci siano nuove manifestazioni, che queste a loro volta inneschino una davvero negli Stati Uniti una seconda ondata. Già nei giorni scorsi si è registrato un aumento di contagi e di decessi in 20 stati americani. Anthony Fauci, e questo lo scrive anche il Wall Street Journal, ha di nuovo cercato di spiegare a Trump che non è ancora prematuro ricominciare questi grandi appuntamenti elettorali, dove il distanziamento è praticamente impossibile, ma credo che Trump andrà per la sua strada, quindi darà, insomma, anche perché ha proprio bisogno, perché i sondaggi che a lui non piacciono, ha chiesto ufficialmente alla CNN di ritirare l'ultimo e di scusarsi per i dati che danno Biden in vantaggio, però c'è più di un sondaggio che appunto probabilmente lo spinge, tra l'altro ieri ha compiuto 74 anni, gli facciamo gli auguri naturalmente, lo spinge a ricominciare una campagna elettorale più aggressiva, più sul territorio. Giulia, abbiamo meno di 30 secondi perché oggi abbiamo una chiusura molto molto anticipata. Cosa ci vuoi lasciare? Ma vi segnalo da ABC, sulla copertina di ABC, ho visto che qualche agenzia l'ha rilanciato, e in copertina c'è scritto che il chavismo letteralmente ha finanziato il movimento 5 Estrellas. Cioè, questa è la notizia. Vedremo, insomma, questa... Sì, questo documento c'è anche un po' un giallo su questo documento, perché non si capisce se sia effettivamente, diciamo, ufficiale oppure no. Grazie Giulia, ci sentiamo domani, è tutto, buona giornata, ciao.